partì con quattro falchi re e i servi lo seguirono per i sentieri ripidi al covo delle aquile. Raggiunse i verdi pascoli e si fermò fra gli alberi. Tre giorni gli mancavano al covo delle aquile. E loro si bagnavano. Ed implorando poi si inginocchiò ai piedi suoi, ma il re era nudo contro il sole e urlò: ubbidisci, il re lo vuole. Avanti, incamminiamoci, vi serva come monito, ma il re.